aveva rese un po' sversato. Ne piaceria saper chi è quell'ostia che al negat la panza il gas usa. Il era il Siberis, il simpatic negere bian, proprio un belen, se c'api quel che la copa, mia pesciade c'api il de tre. La mismandì che è stata la ninetta, e la pula gambetta si fulina, l'han vista in mezzo agli orti ier mattina, che la lumava il gatto con un coltello, e l'è malmostosa ed è brutta cera. E la gaunna svisero e gross, vederla in gir fa proprio pena, che tutti i fiori che danna tos. Na sera lo aspetta in via Savona, quando a mesti lassù la torna ca. Chieso monta de recia la barbona e sur la gamba giusta giù legna. O senti un crack de ossa rot, l'è andata intera come un fagot e la gridava oi mamma mia, messi strani su scappa via. Stasera vo a dormire a rifermatori, in quel del filangeri al numero due, manda del te di poi del brut demoni, mi son convinti stessa aver reso. Che voi da Dio i brava sent, dell'anninetta ne frega niente, è la giustizia che me fa tort, ninetta è viva malgrat le morte, è la giustizia che me fa tort, ninetta è viva malgrat le morte. Come dicevo, la canzone romana del bilancio. Cosa, e noi facciamo una canzone che è internazionalista. Questa è una canzone tradizionale, ma oggi si discute tanto dell'ex soli, l'ex sangue, no? Il fatto che se tu sei nato in un posto, sei a Roma, questo problema l'avevamo risolto l'altro secolo, giuro. E questa canzone lo testimonia. È la legge che è la canzone che testimonia che a Roma, si nasce a Roma, sei romano, indipendentemente dal fatto di chi cazzo era tuo padre. E poi che Alemanno per 32 mm di neve, se crei qualche problema è un problema suo, appunto, non è del resto della cittadinanza. Attacca, mai. De Roma nostra semo di pupetti, semo romani e più tre steverini, non per vantasse semo di più perfetti, cantamo tutti e semo ballerini. Se dice gente allegra Dio l'aiuta, siamo romani e voi sapete perché, ogni tanto una magnata e una bevuta e tutto quanto resto viene da sé. Siamo di fiori tre steverini, siamo signori senza i quadrini, e il cuore nostro è una capanna, cuore sincero che non ti inganna, si sta in bolletta noi ti aiutiamo, però da ricchi non ce passamo. Noi siamo magnatori di spaghetti, delle tre steverine e di galletti. Dicono che Roma non è più quella della porta, dicono che sono tutti forestieri, lasse li chiacchierà che te ne frega, Roma ritornerà quella di ieri. Venite tutti a Roma per noi in vanto, la madre e il padre se faranno anziani, i figli fioriranno come il canto, nascendo a Roma nascono romani, le milanesi con le toscane, se impareranno a parlare romane, e se diranno che c'è un maghetta per andarsi a bere un'altra foglietta, la veneziana che è fumantina, la chiameremo nonna Nerina, e le paresi e le napoletane, lasciatele passare che sono romane. E Roma bella, e Roma mia, te se vanno porta via, e il Colosseo con San Pietro, se lo sanno a comprata, qui se vanno venne tutto, cielo, sole, staria fresca, ma la fava romanesca, ve la volemo riga. Venite tutti a Roma e vi aspettiamo, si dice che più siamo e meglio stiamo. Tutti questi cazzo di cose noi l'avevamo risolto da prima, perché i romani sono avanti, è noto. Prima la buonasera e poi la mano, e gettami giù la giacca ed il coltello, che voglio vendicare al mio fratello, che voglio vendicare al mio fratello, e gettami giù la giacca ed il coltello. La via di San Vittore l'è tutta sassi, l'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi, in via del Filangeri c'è un gran serraglio, la bestia più feroce del commissario, in via del Filangeri che è una campana, volta che la suona le una condanna, prima faceva il ladro e poi la spia, adesso è un delegato di polizia, han fatto più battaglie la tua sottana che tutta la marina americana, han fatto più battaglie il tuo reggipetto che tutti i generali a Caporetto. Oh luna, luna, luna, che fai la spia, bacia la donna d'altri ma non la mia. Oh luna che rischiari ste quattro mura, rischiara la mia cella che è fredda e scura, rischiara la mia cella che è tetra e nera, la gioventù più bella finì in galera, ci sono tre parole in fondo al cuore, la gioventù, la mamma e il primo amore, la gioventù, la pazza, la mamma amore, e il reset come un pirla col primo amore. Porta romana bella, porta romana, ci son le ragazzine che te la danno, ci son le ragazzine che te la danno. Prima la buonasera e poi la mano. Occhio il bicchiere sta scritto spesso. Dove? Che canzone? qualche canzone per l'atleta. Dai, a richiesta, ma parla come dico, c'è qualunque pisano. Ma come dico? Siamo anche per la canzone più politica. Vabbè, sì, dai, poi qualcuno. Facciamo il repertorio. Non so che mi sapesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia o l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembrava oltre anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Fuggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite. La stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali. E contro i re ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria che illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione. Era un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita passare a quei velluti agli ori. Pensava al mezzogiorno della sua gente attorno. Pensava a un treno pieno di signori. Pensava a un treno pieno di signori. Pensava a un treno pieno di signori. Ed un giorno, come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, pensò ad avere modo di riparare qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura. E prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlavano vendetta, gli accecarono il cuore. Dimentico pietà, scordò la sua bontà, la bomba sulla macchina a vapore, la bomba sulla macchina a vapore, la bomba sulla macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava dire contadini curvi, quel fischio che si spande in aria. Fratello, non temere, ritorno al mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. E corre, corre, corre la locomotiva, e si vira il vapore, sembra quasi cosa viva. Ma la stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno. Notizia d'emergenza, agite con urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno. La storia ci racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta. Con l'ultimo soggrido d'animale, la macchina eruttò la piglia e lava. Si sparse contro il cielo, poi l'urlo raccolse il velo, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo ancora dentro il motore, mentre fa correr via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia, una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia. C'era lui che diceva: a Bagulino, ma sei sicuro? A Bagulino, ma sei sicuro? Era Spezzano Albanese alla fiera dell'autogestione. Bagulino lancia fiamme, cioè faceva quei giochi. Era ubriaco come una zucchina e cercavo di fermarlo. Dice: da serie, gli va bene, un amico tuo. Bagulino, lascia perdere. Non era questa impressione che mi hai dato. Io voglio vedere se lo fa davvero. Senti, non è, voglio vedere se lo fa davvero. È evito di fatte fare la figura del coglione, ma contemporaneamente sono preoccupato che ti bruci la faccia. Allora l'esatta mia espressione era questa. Oh, a questa fiera qua, Giallo, a questa fiera qua che dicevo la dell'autogestione a Spezzano Albanese, vennero Germano e Francesco coi cavalli da dove fate? A Spezzano Albanese 96 o 98. Pochi ricordi. Sì, sincero, sincero, dormivo e si dormivo, sognavo in cielo. Coi cavalli dal paese loro, quindi già facevano queste cose, sì. E poi là si erano riconosciuti tipo, cioè, varie situazioni dell'area, diciamo, naturista freak calabrese che neanche si conoscevano, si sono conosciuti a Spezzano. Pensa a te. No, questa è storia. 400 bene. Persone a mangiare con la cucina venuta da Torino. Un saluto a tutti, noi andiamo. Ciao, ciao, okay. Grazie. È stato un piacere. Ciao, Seba, grazie di tutto. Con gli altri ci vediamo, ma con te mi sa che spero che sarà presto. Grazie veramente. Ciao, alla prossima. Ma a parte, questa è casa tua. Sì. Ciao, Bello. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. No, c'è stata una passione musicale con te tremenda. Certo. Uno spunto di flamenco. Stava partendo. Perché non c'è le scarpe adatte. Antonio intanto si stava avvicinando. Non c'era le scarpe adatte. No, parlavo io perché tu suonavi. Ogni tanto batteva il piede. Sorge sul mar la luna, le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso un funereo velo, dorme di schiavi adusti, linea gemer sul remo, spezziam queste catene. Al tele rosso braccio forte. Giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte. Oh, c'è un po' di pasta se volete. Avete mangiato? C'è un po' di pasta, a posto. Entra la corte, esamina il caserio, egli domanda se si era pentito. 5 minuti m'avessero dato un altro presidente, avrei ammazzato. Conoscete voi questo pugnale? Sì, lo conosco, c'ha il manico arrotondo nel cuore di Carnot, l'ho penetrato a fondo. E lì conoscete voi i vostri compagni? Sì, e li conosco, io son dell'anarchia, ma Caserio fa il fornaio e non la spia. Lavoratori, a voi diretto il canto, per questa mia canzon che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte, che per amor di voi sfidò la morte. A te Caserio arde nella pupilla delle vendette umane, la scintilla e dalla plebe che lavora e geme, donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. Tu eri nello splendore della vita, ma non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame che incombe sull'immenso mancarname, e ti levasti tu in atto di dolore d'oscuri torti al vero vendicatore, e ti avventasti tu sì buono e mite a scuoter l'alme schiave ed avvilite. Tremarono i potenti all'atto fiero, e nuove insidie tesero al pensiero, ma il popolo cui l'anima donasti ti comprese, pure tu non piegasti, e coi 20 anni una vera al mattina gettasti al mondo dalla ghigliottina, al mondo della tua grande alma pia, alto gridando e viva all'anarchia. E qui dalle officine Babilonia di Cosenza è giunto il momento di salutarvi. Vi ricordo che avete ascoltato un momento musicale che segue un incontro per parlare di un libro, un incontro per parlare della crisi e delle possibili soluzioni ad essa. In questo momento abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e stiamo cantando, ma prima di collassare sotto i colpi dei vari bicchieri di liquore rosso, pensiamo sia giunto il momento, appunto come dicevamo, di salutarvi. Per Radio Transizione di Fase dunque è tutto per ora da Cosenza e infine vi rimando e vi ricordo quale sarà il prossimo appuntamento sempre da Cosenza, sempre dalle officine Babilonia, da questo spazio occupato all'interno della città dei Bruzzi. Ebbene, il 28 febbraio alle ore 21:30 potrete ascoltare la terza edizione radiofonica dei laboratori di scrittura della Coessenza. Quindi vi ricordo alle 21:30 questo appuntamento di martedì 28 e infine vi ricordo che potete inviare i vostri iscritti e partecipare direttamente a questo laboratorio, un laboratorio dunque che si svolge anche attraverso la radio. Se siete invece di Cosenza o luoghi vicini, venite alle officine Babilonia per questo laboratorio di scrittura creativa della Coessenza. Per questa sera è proprio tutto. Transizione di Fase vi saluta e vi augura un buon ascolto sulle frequenze della nostra fantastica e straordinaria radio.